Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Onorevole Giovanni Legnini, buongiorno, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega all'editoria, all'attuazione del programma di governo. Ecco, il suo segretario Renzi ripete come un mantra che al governo serve una vera svolta nel programma, cioè quello che lei deve attuare, anzi verificare l'attuazione. Buongiorno, arriverà questa svolta? Buongiorno a lei. Arriverà questa svolta? Il programma di governo è stato aggiornato, come lei sa, come sanno gli ascoltatori, a dicembre, allora quando il governo Letta ricevette l'ultimo voto di fiducia. Sì, ma sembra che non basti. Se è in atto un aggiornamento, un'integrazione, una precisazione, l'obiettivo è quello di fissare meglio i punti da realizzare nell'anno sì, che ci attende, onorevole Legnini, anche di scadenziarlo. Ecco, onorevole Legnini, però siamo sì, alla terza ripartenza del governo. Sarà quella buona questa? Assolutamente sì. Faccio notare che la navigazione complicata di questo governo dipesa dalle vicende politiche, vabbè, che sono note a tutti. D'accordo. La scissione del PDL, non mi faccia il riassunto, lo prego, sappiamo, dobbiamo andare avanti. E quindi io le chiedo, il patto di coalizione è quello che dovrebbe rilanciarvi definitivamente? Sì, è quello che ci rilancerà il governo in una fase nella quale si tratta di incrociare la ripresa, che è già in atto, certo, timida ma in atto. Senta, intanto però il presidente Squinzi, presidente di Confindustria, proprio oggi perde la pazienza, dice meglio votare piuttosto che andare avanti così. Cioè, anche per lui la stabilità immobile, come la considera, non è più un valore. Allora il rischio di voto c'è. Il presidente Squinzi è ingeneroso in questo giudizio. Lui sa bene che a fronte della più grave recessione che l'Italia ha vissuto dal 29 ad oggi, finalmente stiamo uscendo da questa, la caduta si è arrestata, stiamo accompagnando con misure concrete. Vabbè, lei è ottimista, insomma, sul patto di coalizione. Senta, lei comunque intanto un problema che deve gestire direttamente ce l'ha, è quello della crisi dell'editoria, è una crisi irreversibile? La crisi non è irreversibile perché per una parte dipende dalla recessione, caduta della raccolta pubblicitaria e altri riflessi connessi appunto alla crisi economica, per altra parte è frutto della trasformazione e dell'innovazione. Vede una luce, spingere sull'innovazione. Sì, vede una luce. Scusi, intanto 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Dicevo, onorevole Legnini, lei vede una luce in fondo al tunnel della crisi dell'editoria? Vedo nuove frontiere dell'editoria, vedo l'affermazione dell'era digitale, della tecnologia digitale, vedo la necessità per il settore dell'editoria di una di un progetto di cambiamento. Senta, che noi stiamo intanto con un fondo specifico. Ecco, un fondo specifico per l'editoria, per finanziare cosa? Per finanziare gli investimenti nel digitale, l'assunzione di giovani professionisti e la fuoriuscita di chi non ce la fa. E quindi questa ristrutturazione abbastanza violenta che è nata nei giornali sarà accompagnata da questo fondo? Esattamente, così, ed è la finalità espressa nella norma che abbiamo approvato. Senta, in America però, stranamente, c'è chi, come il miliardario Buffett, contro tendenza sta comprando tutti i giornali locali. È un pazzo oppure è una strategia complementare allo sviluppo dell'era digitale dell'informazione? Non è un pazzo, perché l'editoria locale ha una funzione rilevantissima che non può essere, non deve essere soppressa dall'evoluzione e dalla rivoluzione digitale. Anche in Italia c'è bisogno di una ristrutturazione delle aziende che per alcuni versi è in atto. Senta, in Italia c'è un grande dibattito sui contenuti dei colossi del web come Google, Amazon, eccetera, che fanno tanti soldi e hanno tanta pubblicità usando contenuti per lo più gratuiti. È normale? Questo dibattito è in atto in Italia e nel mondo. noi l'abbiamo affrontato tempestivamente. Con la web tax? Ho proposto, no, la web tax non c'entra con questo fenomeno, o meglio, c'entra indirettamente. C'entra un po', sì. Nel senso che tende a contrastare il fenomeno di elusione. Beh, fiscale, certo, prima si guadagna e poi dopo non si pagano le tasse. Esattamente. Invece ciò che rileva è la norma che noi abbiamo proposto al Consiglio dei Ministri, che è stata licenziata, che sarà pubblicata unitamente a un provvedimento più esteso, sì, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che è finalizzata al riconoscimento del diritto di autore per tutelare i contenuti. Ecco, quindi tutela cioè del, quindi tutela il rapporto tra i motori di ricerca e i produttori di contenuti. Quindi in qualche modo poi, come dire, a cascata la web tax sarebbe una conseguenza, perché bisognerebbe pagare le tasse per ciò che si guadagna nei paesi, in Italia in particolare, se ho capito bene. No? La web tax nasce dalla impropriamente chiamata web sì, tax. Sì, molto nasce impropriamente. Da un fenomeno elusivo conclamato. Esatto, esatto. Cioè i giganti del web fatturano sì, all'estero, sì, fatturano le prestazioni, la raccolta pubblicitaria. Cioè, tanta pubblicità da noi, ma le tasse pagate altrove. Senta, lei è anche responsabile della struttura che deve commemorare la prima guerra mondiale. Accidenti, si aspetta un successo di partecipazione, di interesse come quello avuto per i 150 anni dell'Unità d'Italia, oppure no? Stiamo lavorando, è un centenario che coinvolge 30 paesi, tutta Europa e non solo l'Europa, pensi che persino l'Australia e gli Stati Uniti parteciperanno a queste celebrazioni. Ma qual è la più significativa di queste iniziative? Che avete la più pensato? Significativa è il recupero di 11 sacrari importanti, il recupero alla dignità, al decoro, che in molti casi non sono ben tenuti. Senta, ma ed è la creazione di un vero e proprio memoriale della memoria. La Grande Guerra è stato l'evento bellico più... Onorevole Legnini... Più tremendo. Onorevole Legnini, il Presidente della Repubblica è impegnato come lo è stato per i 150 anni su questa sì, vicenda? Questa iniziativa del governo nasce su impulso del Presidente della Repubblica e nasce anche per aderire alle analoghe iniziative degli altri paesi a cui mi riferivo prima. Senta, onorevole Legnini, Giorgio da Firenze ci chiede: ma si può sapere esattamente cosa fa un ministro per l'attuazione del programma? Esattamente. Monitora l'attuazione, stimola l'attuazione dei provvedimenti legislativi, considera che uno dei problemi endemici, patologici del nostro paese è quello di fare le leggi e di non attuarle. Appunto, esattamente qui si posiziona l'azione. La sua azione. Quanti ne ha ereditati di decreti del governo Monti? Una quantità enorme, lei pensi che... Quanti? Mi dica un numero. 883 provvedimenti ne erano stati fatti il 27%. Che vuol dire che adesso non erano diventate legge, chiacchiere insomma, sostanzialmente. No. Norme di legge, ma non immediatamente attuate, quindi non servono ancora niente. Molti fronti, sì. Aumentare la qualità della legislazione, accelerare l'attuazione, disincagliare le intese, i concerti, i problemi che va bene, burocrazie da risolvere. All'attuazione del programma. Mario Secchi vuol farle una domanda, onorevole Legnini. Prego. Buongiorno. Buongiorno a lei. È vero che il PIL nel terzo trimestre sarà positivo? È ancora in fase di rilevamento, ma sarà di pochissimo positivo. Buttafuoco, una domanda da buongiorno onorevole, una curiosità riguardo al suo ruolo di responsabile sulle commemorazioni della Prima Guerra Mondiale. Per il 150enario venne messo tra parentesi il ruolo di Casa Savoia della monarchia. Succederà la stessa cosa di Casa Savoia e della monarchia nei 150 anni dell'Unità d'Italia. Per davvero non ho sentito. Mi sente? Sì. Le dicevo, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia saltò agli occhi, polemicamente ovviamente, l'assenza e il ruolo di Casa Savoia nella memoria dei 150 anni. Ora le chiedo, succederà la stessa cosa anche per la Prima Guerra Mondiale? Guardi, il programma delle commemorazioni sarà definito da un comitato storico-scientifico che sta vagliando le proposte che vengono dalle regioni, dai comuni, dai territori, dalle associazioni ex combattentistiche, dal vabbè, mondo. Insomma, è un concerto. Lo vedremo. È un concerto. Perché grazie. L'Italia non ha mai memoria per questo. Va bene, grazie onorevole Legnini, buon grazie lavoro. A lei, grazie. Sette morti e due feriti gravi a Prato nel rogo di una fabbrica gestita da cinesi all'interno dormitori abusivi, cause da chiarire. Però ho visto tante fiamme, delle fiamme altissime, un fumo intenso e si dava andare a fare per spengere il fuoco. Nell'azienda di confezioni Teresa Moda gli operai lavoravano e vivevano. Molti mi gridavano dietro in cinese, un po' in italiano, ci sono altri. Disastro. C'è la soluzione, basta fare controlli e fagli adeguare a come siamo noi. Per far concorrenza a loro non c'è verso, perché loro non pagano una sega, loro hanno gli schiavi. Noi, se prendo una ragazza, se dopo un giorno lei ha nero, ma restano a me. Una dozzina di cittadini cinesi, parenti delle vittime, hanno protestato davanti al consolato della Repubblica Cinese a Firenze. E la giornata del lutto cittadino a Prato, la comunità italiana si stringe a quella cinese. Era il 1° dicembre, sono passati 2 mesi, tutti avevano fatto proclami, preso impegni, promesso interventi. Andrea Pasquinelli è il comandante generale della Polizia Municipale di Prato. Da giorni i parenti delle 7 vittime piantonano la casa della proprietaria della fabbrica bruciata, una cinese, perché vogliono il risarcimento. È una novità nel comportamento dei cinesi a Prato? Sicuramente sì, è una novità, come è stata una novità anche il corteo, la fiaccolata che c'è stata subito dopo la tragedia. Ma vuol dire che si rompe un muro di omertà? Ma qualche segnale c'era già stato in precedenza, casi isolati, persone, lavoratori che denunciavano di essere stati sfruttati dal datore di lavoro. E in questo momento direi che qualcosa si sta muovendo. Ecco, comandante Pasquinelli, dal 2 dicembre i vostri controlli sono facilitati da questo movimento nella società cinese? No, questo non possiamo affermarlo. Diciamo che questo tipo di atteggiamento è più presente a livello istituzionale, consolato, ambasciata e nelle organizzazioni. Ah, non ancora nella comunità, nell'organizzazione della comunità vera e propria? No, questo non possiamo dirlo. E quindi voi non si può dire, comandante, che riuscite a garantire meglio e di più le condizioni di lavoro dei cinesi che lavorano nel distretto industriale? Il nostro impegno, diciamo che è massimo, come è stato in questi anni, sono ormai più di 5 anni che noi abbiamo questa attività così incessante. Ma sarà cambiato qualcosa, no, in questi 5 anni? Ma sì, dei segnali ci sono, però naturalmente, come dire, la nostra attività da sola non può certo, naturalmente, non può certo risolvere il problema. Ma la caratteristica... Noi possiamo accompagnare un cambiamento, ma non lo possiamo dirigere. Ma la caratteristica della società cinese lì di Prato, come in generale, è di essere assolutamente difficile da penetrare, no? Molto sì, chiusa. Sì, è una comunità molto chiusa, molto autoreferenziale. Il presidente della Regione Rossi ha annunciato l'assunzione di 50 tecnici della prevenzione. È utile secondo lei sul territorio o è una, come dire, iniziativa un po' palliativo? No, assolutamente utile, perché naturalmente bisogna vedere poi che tipo di attività questi nuovi ispettori andranno a mettere in atto. E secondo lei cosa dovrebbero fare per essere utili? Dovrebbero adottare il nostro sistema di approccio alla problematica dell'abusivismo, cioè noi procediamo sempre con sequestri penali preventivi in modo da essere immediatamente efficaci. Gli ispettori del lavoro normalmente applicano un altro tipo di procedura. Quindi dovrebbero cambiare modalità, sì, insomma. Cambiare modalità, perché loro normalmente impongono prescrizioni da ottemperare entro un certo termine di tempo. Questo va bene per ditte strutturate che sono legate al territorio, certo, ma meno bene per ditte volatili. Ecco, ma chi le coordinerà? Siete voi, comandante Pasquinelli, a coordinarli? Questo ancora non è chiaro. Sarebbe importante, per avere le stesse modalità, sarebbe importante. Sicuramente sì. Va bene, grazie. Prego, arrivederci. 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Naturalmente, per capire qual è lo stato dell'integrazione e del confronto tra imprenditori italiani e cinesi, Sara Tardelli ha sentito il presidente dell'Unione Industriale di Prato, Andrea Cavicchi. Andrea Cavicchi, presidente dell'Unione Industriale di Prato. Qualcuno è iscritto anche, sì, qualche ci sono imprenditore? Due i due iscritti, i due imprenditori. L'imprenditore che si iscrive o che si vuole regolarizzare o che è già regolarizzato ha un atteggiamento, poi dietro c'è tutta una comunità che ha un atteggiamento completamente diverso. Diciamo che è difficile far cambiare una mentalità a una comunità che viene da un paese in cui lavoravano nella stessa maniera, quindi spesso arrivano e credono di essere nella stessa situazione, mentre invece sono in una totale illegalità. Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale della Moda, vi aveva esortato a trovare il modo di integrare il distretto tessile pratese con quello cinese. Come è andata a finire? La cosa difficile è che le imprese di confezione cinesi lavorano quasi sempre con tessuti cinesi, cioè lavorano con tessuti di importazione, alcuni regolari, ma molto spesso anche tramite dogane compiacenti irregolari. Molto spesso usano rasi, lino o cotoni, e noi siamo più specializzati nella lana. Comunque incominciamo ad avere alcune volte anche tramite i grandi marchi dei contatti in cui loro contattano il confezionista e poi a loro volta contattano i fornitori di tessuto e creano una specie di filiera temporanea per l'ordine. E allora dov'è il problema? Il problema è che chi è che certifica il produttore cinese? Dovrebbe essere il confezionista finale che garantisce, certo, per la qualità e per il rispetto delle regole. Il produttore di tessuto non ha il potere di garantire chi confeziona il capo. Presidente Cavicchi, che cosa dovremmo prendere di buono dal modo di lavorare dei cinesi? La cosa che dovremmo prendere è la grande volontà di imprenditorialità, cosa che noi, ad esempio, nel nostro distretto si manifesta una carenza di presenza di imprenditori giovani, mentre nella comunità cinese la media degli imprenditori è veramente di età molto bassa. Ma quindi i controlli necessari per il rispetto delle regole sono efficaci? I cinesi sul nostro territorio che lavorano nell'illegalità aprono e chiudono le ditte in una velocità di circa 2 anni. Eh sì, c'è un turnover altissimo. Turnover di media 2 anni, questo vuol dire che l'Agenzia delle Entrate non può arrivare a percepire i bilanci perché andrebbe a prendere quello di 3 anni prima, e quindi sono già morte le imprese. Questo è un sistema che va cambiato. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, affrontare se non risolvere il problema dell'integrazione tra la comunità cinese e quella italiana naturalmente è uno dei punti caldi dei programmi per le prossime amministrazioni di Prato. Matteo Biffoni, renziano, onorevole, lei è deputato della zona, candidato a sindaco di Prato. Ecco, questa dell'integrazione è un nodo centrale per la prossima amministrazione. Mi dice una cosa che farà? È un nodo fondamentale per la prossima amministrazione. È necessario che accanto ai giusti controlli, perché dove c'è violazione delle norme ci deve essere repressione, ci deve essere un meccanismo per cui si cerca di favorire coloro che vogliono mettersi in regola. Sì, ma mi dica una cosa che farà di sicuro, se toccherà a lei. Il coinvolgimento delle imprese, come ha fatto la CNA, che ha già coinvolto tante aziende che hanno deciso di uscire dall'illegalità e di integrarsi. Senza favorire questo tipo di meccanismi è quello che deve fare l'amministrazione. Ecco, un'ultima cosa, ma per battere il muro dell'omertà della comunità cinese, avete pensato qualcosa? Sì, l'idea è di dare tutta la protezione possibile per tutti coloro che denunciano, con gli strumenti che ha l'amministrazione comunale ovviamente, ma su questo per chi vuole denunciare situazioni di sfruttamento, di violazione delle regole, quello che potrà fare l'amministrazione comunale si farà. Sì, ma bisogna proteggere chi fa queste eventuali denunce. Certo. È fondamentale, con gli strumenti dei sociali e all'amministrazione insieme alle forze dell'ordine, assolutamente sì. Insomma, bisogna partire per un'integrazione dal basso sostanzialmente. Su questo non c'è dubbio, i blitz vanno bene, i controlli vanno benissimo, ma hanno dimostrato in questi anni che da soli non sono sufficienti. Durano un attimo. Bisogna integrare le due forze, e questo è quello che noi vorremmo fare. Grazie onorevole Biffoni, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie. Mix 24. Dopo Muscardini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei proprio non può. Forse può bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Ora un po' di torta per me, sì per me. A lei porti un tazzone di carcane. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante. Tu hai vinto di niente. Traggelo. Contro le carote, contro il riso bianco, perché ci vuole una... Insomma, ci vuole una rivolta. E poi la domenica che si accompagna ai cannelloni, sono i cannelloni di Giorgio Conte, è un auspicio affinché questa settimana sia un ben godi. E bisogna a tutti i costi muoversi per masticare bene, anche perché se... deve andare bene nell'economia, se il prodotto interno lordo avrà i suoi piccoli passettini, è anche giusto che si rinunci alla carota e al riso bianco. Ecco. Vai col cannellone, Giorgio Conte. Viste la tua dieta al ristorante mentre mangio. Cosa hai mangiato a Torino, Minoli? Beh, guarda, meraviglioso. No, meraviglioso, no, a Torino, in Piemonte. No, guarda, in Piemonte si mangia. A Torino, qualunque cosa è stupenda. No, non voglio. Siete dei goderecci. Tremendo, ma, tremendo. Certo, con la Juve che abbiamo, non c'è dubbio. Pure. Che cosa volle? E poi vi siete liberati della Fiat. Quello poi. Allora, ci siamo? Sì, ci siamo. Ma sono bolle volanti. Sì, qua. In regia c'è la Tardelli che balla, vabbè. Allora, Ryanair, chi non ha sentito questo jingle? Vabbè. E insomma, sorpresa Giovanni, Ryanair perde soldi. Chi l'avrebbe mai detto? Gli analisti si attendono circa 35 milioni di euro di perdite nell'ultimo trimestre. Ma è incredibile, come mai? Perché sembrava... Beh, pure loro, il traffico, no? Hanno dei problemi, tutti quanti i vettori, sai che oggi ci sono... No, lo so, ma Ryanair... Tre mestieri sono diventati iperpericolosi per il posto di lavoro. Uno è, vabbè, il giornalista, abbiamo visto la crisi, eccetera. Due, le banche, e tre, le compagnie aeree, quindi diciamo... Torniamo poi i nostri ascoltatori, come dice Buttafuoco. Sì, i nostri ascoltatori ne aggiungeranno anche altri, eventualmente. Comunque, insomma, oggi vedremo i dati. Per fortuna ci sono gli arabi per noi. Per fortuna ci sono gli arabi e quindi decolliamo. Gli arabi che dovrebbero entrare nel capitale di Alitalia, speriamo. L'ETA ha firmato un po' di accordi negli Emirati Arabi, come sanno i nostri ascoltatori. È in ballo un investimento di Etihad per circa 400 milioni di euro per comprare il 40% di Alitalia. Speriamo vada in porto, perché è l'unica occasione che abbiamo. Quanto sangue costerà ai lavoratori dell'Alitalia questo accordo? Non lo sappiamo ancora, bisogna vedere i dettagli. Qualcuno dice prima l'Italia ristruttura e poi... che è la cosa naturalmente più probabile. Sì, e poi gli arabi entrano. Poi vediamo come saranno veramente i numeri, se ci sarà un ulteriore taglio di personale. Certamente... alcuni costi andranno tolti. La partita grossa lì, è chiara a tutti, no? È quella dello scalo di Fiumicino, certo, è evidente. Certo. Cioè non è il vettore in sé la cosa quello importante, che interessa, ma è l'hub strategico di Fiumicino. Perché quello permette al mondo arabo di entrare direttamente nel mercato. E speriamo europeo. Anche, se posso aggiungere Giovanni, di non vedere più nel capitale le Poste. Dopo questa operazione, perché francamente è possibile che faccia marcia indietro. Beh, io me lo auguro, perché insomma mi chiedo sempre cosa c'entrano le Poste con una compagnia aerea. Poi può darsi che io sia difficile da spiegare, che io sia un purista. Non lo so, però è strano. In ogni caso c'è chi dà i numeri. E se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda e alla fine nessuno di noi se la prende. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere, l'unico modo per tutti di scovare. Allora, vabbè, è Beautiful Mind, no? Era un famoso film dove c'era il genio dei numeri. Qua la battaglia è quella dell'Istat. Legnini ha dato una conferma, un'anticipazione nella sua intervista di poco fa, cioè ci sarà un dato del PIL di poco positivo. Di quanto? Questo è molto importante da capire, perché se uno 0,1 diciamo annuale, se uno 0,3 vedremo, non lo sappiamo ancora. Una cosa è certa, su quel numero si basa un po' anche il destino bacino in qualche maniera del governo Letta. Del governo Letta. Quindi c'è una grossissima battaglia. Secondo te qual è, come dire, la soglia al di sotto della quale il governo Letta se la vedrà più brutta di quanto se la sta già vedendo? Ma se fa 0,1 è veramente niente, cioè, è pochissimo. Sarebbe 10 volte meno di quello che ha fatto la Germania, mi pare. Vabbè, faranno di tutto per non fare accorgere nessuno su questo dato. Come no, però attenzione. Viene fatto sopravvivere, questo però non hai c'è sentito, dubbio. Sei sicuro? Hai sentito Squinzi? Guarda, Squinzi guarda che dice basta, un uomo prudente. Sì, generale, assolutamente. Insomma. A me è molto colpito questa presa di posizione di Squinzi, che avremo presto qui al faccia a faccia a Mix 24. Ma io penso questo, se loro fanno, anche se facessero 0,3, cioè non, ai fini diciamo della ripresa italiana non cambia nulla. Anche è simbolico, perché, diciamo. Sì, è proiettata per quest'anno in maniera prudenziale a 0,7. Non sanno neppure se riusciranno a rispettare questo obiettivo, diciamo, questo target. Vabbè, vediamo. Quello che segnalo io è che pure lì state diventando terreno di scontro. Un no? governo appeso a uno 0, diciamo. Insomma, non è proprio il massimo. Salamini. Il salamino si addice a tutte le sofferenze interne al mondo berlusconiano, e oggi dalla lettura del Corriere della Sera vengo a scoprire di un fatto assai curioso. Ovviamente tutti ci siamo appassionati alla Toteide e quindi all'avvento di questo nuovo leader. Anche alla Dudeide, se per alla quello. Toteide che ha fatto seguito alla Dudeide, quindi Dudu Ucanuzzo e Toti, Giovanni Toti, il nuovo leader di Forza Italia, disconosciuto, riconosciuto, insomma una vicenda che appassiona. Lì sta. Però oggi Nardella, che insomma, Dario, pur essendo nel campo da Gramante, pur essendo lui la mente dei renziani, la butta lì e dice una cosa che conferma quello che i poveri di spirito un tempo affidavano solo a Marina. Invece lui dice: il vero gioco si farà con la carta fondamentale, cioè la figlia Barbara, la figlia di Silvio Berlusconi, Barbara, che sarà la vera candidata. E qua ci sono due scuole di pensiero. E c'è quella cacciariana di antica memoria, e c'è quella della De Monticelli, che invece era ostile. Quindi vedi, due scuole filosofiche, due scuole filosofiche si sono fronteggiate, siccome fa duopo la dedica, io dedico Barbara. A Barbara, ascoltate. On peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières. Pure canzone francese. Mal di vivere, qui siamo in pieno esistenzialismo, perché la candidatura di Barbara è stata battezzata da due filosofi, fior di filosofi. Barbara, appunto, un mito della canzone francese. Silvio è uno che canta, questa canta sua tradizione bene, dice, canta bene il francese. Ma io volevo dire una cosa. Dimmi. Ci siamo dimenticati Casini. Mi sembra che ha battuto a Toc Toc per entrare. Sì, ma se c'è Toti davanti, figurati Casini. Dietro. Casini possono essere davanti e dietro, non si sa mai. Ma andiamo. Cavalleria perché britannica, tra l'altro, questa è la tromba della cavalleria britannica, perché ho letto sul Financial Times stamattina una notizia che vediamo che effetti avrà, ripercussioni in Italia, ma pare che, ripeto, secondo il Financial Times, proprio no? Che insomma un giornalino dice che Banca Intesa starebbe per creare una bad bank interna dove dirottare i 55 miliardi di euro di prestiti in sofferenza. La mossa è una prima misura agli stress test della BCE, sai, devono monitorare i bilanci delle principali banche in Europa. No, scusa, spiega bene questa cosa, perché mi sembra messa così. Si chiamano tecnicamente. Sembra una cosa difficile da capire, ma invece questi 55 miliardi di euro di prestiti in sofferenza, possono essere anche i nostri non performing? Si chiamano tecnicamente non performing loans. Sì, sì, cioè, sono prestiti che sono, diciamo, più difficili per superare gli stress test. Sì. Mm. Sì. Non è un maquillage contabile, è molto di più. Cioè, come dire, facciamo chiarezza, li mettiamo qua e li gestiremo nel corso del tempo in una certa maniera. Ovviamente la Banca Centrale Europea fa le sue valutazioni, le farà per tutte le principali banche. Il 2014 sotto questo aspetto sarà un anno importantissimo. Ma intanto arriveranno i 300 miliardi di passera, no? Tu li hai visti? È passato gennaio. Ci apprestiamo a parlarne con lui. È passato gennaio. È passato gennaio, ma passera, stiamo per arrivare. Dai, Corrado. No, vabbè, vediamo. Garinei e Giovannini, cos'è sta roba? Questa roba è la storia che racconteremo dalle 10 alle 11, un'anteprima. Loro avevano già capito cos'è che bisognava dare al pubblico, per questo hanno inventato il musichiere o altre trasmissioni, anche denunciando in modo molto professionale che erano state ispirate a spettacoli americani. Mi ricordo con Sandro e noi dopo ogni puntata del musichiere c'eravamo divisi la popolazione romana, io ci avevo dall'A alla M e Sandro dalla M in poi, e la mattina dopo facevamo delle telefonate a questi signori per sapere come era andata la trasmissione, cosa era piaciuto, cosa non gli era piaciuto. Il musichiere! Cantano Luca Bongiovanni e Johnny Dorelli. Posso dire una cosa? Sì. È una vita che sul foglio lancio appelli a Mondadori, perché la casa editrice Mondadori è la casa editrice che pubblica i Meridiani, e nei Meridiani c'è il meglio dei classici, della letteratura, della cultura, della filosofia. E siccome sono stati pubblicati i massimi tra i rappresentanti della cultura, io reclamo un Meridiano per Garinei e Giovannini. Che intanto racconteremo, lo ripeto, dalle 10 alle 11 nella storia curata da Marina Milone. E poi c'è una novità. Domani, in omaggio alla tradizione di Garinei e Giovannini, ci consentiremo un gioco, un quiz che abbiamo già accennato con gli ascoltatori. Adesso invece lo abbiamo architettato per benino. Non sarà il musichiere, bensì il canzoniere, un quiz con i nostri ascoltatori. Faccio un esempio, ci sarà la lettura di un incipit, vediamo magari chi vuole indovinare oggi. L'incipit è questo: c'era in Vestfalia un giovinetto che la natura aveva dotato di costumi assai docili, viveva nel castello, e quindi l'ascoltatore, lo faccia subito, o l'ascoltatrice, deve indovinare qual è il libro di questo incipit. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, ancora una bolla prima io di finire. Io vi faccio sentire questo. Sorry, Coke and Pepsi. Oh yeah, she done it. Soda Stream. Che bello, era Scarlett, magari lo risentiamo se la regia ce lo fa risentire, perché Scarlett Johansson, senti. Sorry, Coke and Pepsi. Oh, yeah, she done it. Sorry, Coke and Pepsi. Non ti dico come si muove, come guarda, è meravigliosa. Immagino. È il sogno di tutti noi, perché la pubblicità di SodaStream, sapete che è finita nei guai per una querelle politica piuttosto grossa con i palestinesi. L'azienda è accusata di sfruttare i lavoratori palestinesi. Ovviamente SodaStream ribatte. La verità è poi che, come sempre, è un po' tutto surreale, ma lo spot è stato bandito dal Super Bowl. Aia. E quindi Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Matteo da Cagliari caro Pietrangelo, dice il Candide di Voltaire. Giusto, mi pare giusto. Che ha vinto, no? Ha vinto. Bravo. Bravo. Bravo. E allora, bravo, bravo. E allora, prima di collegarci con il professor Simonelli per sapere dove era il canone ieri sera, invito anche voi naturalmente a dire la vostra sulla programmazione televisiva. Mario, un ricordo e un omaggio. Un ricordo e un omaggio, vai. Non sto cercando di umiliarti o di fartela pagare in qualche modo, perciò chiedi scusa e basta. Ma di che cazzo stai parlando? Claire George ha detto che venivi qui a chiedere scusa. No, io dovevo venire perché tu chiedessi scusa a me. Secondo chi? Claire George. Tu mi mandi a farmi fottere e io dovrei scusarmi? Sì. Mi spacchi la vetrata e io dovrei scusarmi? Il posto Helsinki era mio. Il posto Helsinki non era tuo. Mi è stato promesso. Non da me. Sono nella compagnia da 24 anni. Sono stato piazzato in Grecia per 15. Papandreou avrebbe vinto le elezioni se non avesse aiutato la giunta a farlo prigioniero. Ho consigliato e armato l'esercito ellenico. Ho neutralizzato campioni del comunismo. Ho passato gli ultimi 3 anni a imparare il finlandese, che ti serve a tanto qui in Virginia. E sono stato anche capo marmotta. Perciò voglio sapere come mai non diventerò il capo della base di Helsinki. Sei rozzo. Porca miseria! E il vetro è rotto. Era Philip Seymour Hoffman in La guerra di Charlie Wilson. Un film fantastico con Tom Hanks. Lo meritava. È regia di Mike Nichols. Secondo me è stata una grande perdita per Hollywood e per il cinema. E dov'era il canone ieri sera per te? Devo dirlo. Leggevi? No, ho visto la partita. Ah, la Juve, grande la Juve, sì. Bravo. Pietrangelo no. Sì, ovviamente, come si chiama quello lì, quello che piace a tutti, che c'era la presidente il presidente Boldrini. Ah, che Boldrini, ci dava il tempo, le previsioni del tempo. Che tempo Bernacca, che fa? Bernacca. Che tempo che fa Fabio Fazio? L'intervista si dice nel suo caso, perché io poi c'ho sta confusione col politicamente corretto, come si deve dire, il presidente Boldrini o la presidente Boldrini? La presidenta. Professore, come Argentina. Bisogna dire? Come Argentina. Bisogna dire, professore? Professore? Bisogna dire la presidente Boldrini. La presidente. Giusto. Perfetto. E intanto il canone era lì ieri sera. Era proprio lì. Era dalla presidente. Era proprio lì. Accidente. Non dalla Boldrini, no? Attenzione, era lì. Da Fazio, ma non dalla Boldrini. Il canone ci ha preso buttafuoco. Dopo la Boldrini. Dopo la Boldrini. E che c'è dopo la Boldrini? Quando è arrivato Verdone. E dopo ancora, quando è arrivato niente poco di meno che David Lynch. Sì, è vero, c'era Lynch. Beh, accidenti, grande puntata. Grande canone, grande puntata. Ma soprattutto il canone era in un momento, perché noi parliamo sempre di farsi, di quelli che appaiono, ma il canone lo fanno quelli che stanno dietro. Un montaggio meraviglioso. Cioè, da noi è Sara Tardelli, Marina Milone che fanno il loro. E lì è un sacco di persone, posso citare Samantha Chiodini perché è mia allieva, ecco, ma tanti altri sono lì, che hanno fatto un montaggio meraviglioso, i baci che Verdone ha dato alle varie attrici, intervallato da Margherita Bui che spiegava le varie forme di bacio a Verdone. E mi ha ricordato una famosa sequenza di baci che è in un famoso film italiano, Chi indovina è bravo, ma tutti lo sanno. Ecco perché la televisione è anche questo, insomma, non è soltanto la chiacchiera, la Boldrini, i temi già tante volte trattati, è andare a fare un montaggio di cose belle, di storie del cinema italiano, e lì io ci trovo. Poi posso aggiungere una cosa ieri sera di sport, ho tempo? Al volo. Al volo, perché ieri sera c'era molto sport, Super Bowl, l'Italia che ha superato il turno di Coppa Davis, ma secondo me il canone era soprattutto su Fox Sport, che ha trasmesso Atleti Bilbao Real Madrid, che non è solo una partita di calcio, è una partita di calcio che rappresenta una antichissima lotta spagnola tra l'autonomia. Però, e il professore, naturalmente ieri sera c'era anche Report. C'era anche Report, vabbè, ne parliamo un'altra volta. Eh? Sì, oggi volta. Niente, va oggi bene, comunque. No, diciamo perché . Lasciamo un po' la politica, insomma, che preferisco i baci di Verdone. I baci di Verdone. Ed altro, professore, ancora qualche... D'altro, ovviamente, bisognerà poi approfondirlo, c'è questo Braccialetti Rossi su Rai 1, che insomma vabbè, la prima puntata mi sembra che ha fatto il 20%, quindi sì, discreto, ma niente di straordinario. Ma dobbiamo avere tempo per vedere. Va bene, una cosa ne parleremo, perché l'idea è un format spagnolo, mi sembra, no? Sì, è un comprato, format spagnolo, adattato in maniera molto fedele. Sì. L'ultima cosa sul canone ieri sera, era un po' preoccupato, perché sabato sera al posto di Ranieri è tornata la Clerici. E dopo aver visto Ranieri che parlava di canzoni, sì, cantava, però c'era insomma Shakespeare, Molière, Neruda, siamo tornati invece alla saga in cui i bambini cantano. Va bene, intanto io le consiglio, professore, questa sera di vedere L'assalto, la fiction di Ricky Tognazzi. Chissà che non meriti il canone. Abbiamo un'intervista. Ricky Tognazzi, questa sera va in onda la sua fiction, L'assalto. Qual è la storia? Racconta l'infiltrazione dell''ndrangheta al nord attraverso le vicende di Diego Battantuono, che è un imprenditore costruttore, con sua figlia Camilla Semino Favro, si ritrovano stretti nella morsa dell''ndrangheta. Quindi la crisi e le difficoltà degli italiani stanno spingendo anche il mondo dello spettacolo ad interessarsi di più ai problemi reali del nostro paese? Diciamo che è tradizione del cinema interessarsi alla realtà, pedinare la realtà, come diceva il grandissimo Zavattini, e quindi sì, credo sia il primo film che tenti di raccontare questa realtà, una grande occasione secondo me, perché di riflessione anche. Di riflessione, le storie poi colpiscono il cuore della gente, diciamo che purtroppo siamo ormai assuefatti alle notizie sul telegiornale, invece i film riescono spesso e volentieri a smuovere emozioni. Su cosa si è basato per scrivere la sceneggiatura e definire i personaggi? Il film è fortemente ispirato alla realtà. Monica Zappelli aveva scritto un libro su questa realtà qualche anno fa e sono stati pedinati, appunto interrogati tanti imprenditori. E quindi è una storia esemplare. Nella fiction c'è una donna, la figlia di Battantuono, che ha un ruolo importante. Che cosa fa? La figura femminile spesso e volentieri in queste storie è una figura determinante. Qui raccontiamo come una figlia riesce a risvegliare nel padre un senso etico, poi in qualche modo ha tradito le aspettative di sua figlia. Sua figlia rimane turbata, scioccata quando scopre finalmente la realtà. E quindi lui si ritrova in qualche modo a doversi riflettere negli occhi di sua figlia. Lei pensa che la sua fiction potrà servire appunto a chi si trova nella stessa situazione del suo protagonista interpretato da Battantuono? Credo profondamente che vedere un film a volte può cambiare il tuo punto di vista, perché un'emozione ti ha colpito, ti sei identificato, insomma. Ci sarà anche qualche sorriso dentro L'assalto? Assolutamente sì, perché Diego, che è attore creativo, ha portato la sua ironia nel personaggio. Grazie mille, grazie. Oggi, a cura di Marina Milone, come sempre, va in onda la prima di due puntate dedicate al grande successo firmato Garinei e Giovannini, un viaggio nel teatro musicale italiano attraverso le voci dei grandi artisti che hanno contribuito a divertire e a far sognare generazioni intere di italiani.